Zolt. Fulminati in azienda. Ragazzi, come sapete, ho partecipato al convegno sul management stellare, lo Star Trek Management. Sì, certo, un corso molto innovativo. Esatto, brava Schedule. Infatti sono tornato con un'idea molto innovativa. Cioè, tutte le aziende più avanti fanno fare la job rotation al management in un'ottica complessiva di fertilization, impollination, mobilitation. Ma non c'è sto a capire niente, rotation, impollination. No, significa che ogni manager cambierà ruolo in azienda. Capito? Ecco, allora scusa. Tu, super consulente, cosa dici? Lo facciamo anche noi? La vostra azienda avrebbe bisogno di far fare al management un po' di job rotation, ne gioverebbe la fertilization, impollination. Bravo, ma vedi che ce lo suggerisce anche la consulenza. Allora adesso vi pregherei di lasciarmi con Paragone, perché dobbiamo decidere come mescolare le carte. No, Marco, in qualità di responsabile delle risorse umane, anch'io... Qualità delle risorse umane, oggi e domani non lo sappiamo, sai, la rotation... No, ma come? Io non posso! Stop! Cioè... Grazie, Schedula fuori. Allora, super consulente, che metodo usiamo per rimescolare i ruoli? Carta vince, carta perde? Allora, carissimi colleghi, siete contenti del vostro nuovo ruolo? Voglio sapere come vanno le cose. Tu, Font, per esempio, come va dalla comunicazione alle vendite? Oh, ma è così sfidante occuparmi dei venditori, sono così simpatici. Centrifuga? Che te devo dire, a me mi pare sempre tutta una fregatura. Mo devo capindo sta sola ad essere nuovo responsabile del personale. Ci vuole ottimismo, Centri, dai. E tu, Schedula? Beh, mi chiedo come posso fare io. Io che mi sono formata in psicologia del lavoro. Poi ho fatto lunghi, lunghissimi anni delle relazioni. La Schedula, devi dire sì o no. Non è che ogni volta ci devi fare una conferenza. No, allora no. Io occuparmi di marketing, comunicazione. Stop, dopo anni di... grazie, bello, ok, bene così. Mi fa piacere che avete preso tutti con lo spirito giusto l'idea della mobilità. Mobilità intesa naturalmente come opportunità di rinascita, nuove sfide, new spy. Adesso sono qui tutto orecchi perché voglio sentire le vostre idee. Posso? Allora io, guarda, come prima cosa ho fatto un tour del territorio. Ho conosciuto tutti i venditori, sono stati così gentili. Guarda lo squalo, pensate, mi ha regalato delle rose. Sono venditori, Font, sono ruffiani dentro. Vedrai che quel paraculo dello squalo e rose li ha riciclate. Ma come sei cinico, Centri. Insomma, ho visto un grande entusiasmo. Però devo dire, scusate, sono un po' trasandati questi venditori. Allora come prima azione ho fatto preparare un kit per il bravo venditore, con uno spray per l'alito cattivo e una crema emolliente per le mani, così quando salutano il cliente, sì, che gli stringono la mano, gli sguscia. Font, non voglio sapere che altro c'è nel kit. Andiamo avanti, dai, andiamo avanti. Tu, Centrifuga, che cosa fai o cosa farai come capo del personale? Allora, io voglio introdurre un aumento di stipendio per i quadri, per middle manager se fa ammazzo così, e poi soprattutto un sistema di valutazione nuovo. E cioè? Dimmi. E cioè che i dirigenti vengono valutati dal basso e se fanno cazzate gli tagliamo lo stipendio, no, finalmente. Ma no, non è mai stato possibile. Schedula, grazie. Centri, mi sembra un po' azzardato come novità. Comunque, poi ne parliamo. Tu, Schedula, cosa mi racconti? Io ho messo in piedi 111 workshop con tutto il personale per definire dal basso il payoff della nuova pubblicità, per includere tutti, la pubblicità del prodotto pronto prima. Una cosa agile, come al tuo solito. Bene, bene, ragazzi, non so cosa dirvi. Comunque, all'inizio è sempre così. I primi vagiti sono incomprensibili, ma poi si procede. La parola d'ordine è job rotation is fertilization. Pronto? Oh, carissimo, sul pezzo. Ciao squalo. Allora ci vieni a trovare un modo, qui abbiamo bisogno della tua energia, soprattutto qui da Fagiolaro a Trastevere. Sì, certo, immagino squalo, vengo subito. Piuttosto dimmi come vanno lì da voi i risultati, dai. Allora, il risultato melatide, no. Qui sembrano tutti delle fighette con la crema sul viso, gli incentivi del trattamento full body che ci ha dato la Font. Piuttosto, Marco, senti, ti ho chiamato perché c'è un'altra tragedia. No, dai, squalo, almeno tu portami buone notizie. Cos'è successo ancora? No, Marco, allora, qua pare che dovevamo andare dal cliente tutti con la giacca color prugna e una cravatta rosa. No. E il peggio è che ci hanno dipinte le macchine aziendali de fucsia con una manciata di prugnette sul cofano. Ma Marco, io così non me muovo. Non me muovo. Se vuoi saperne di più, www.zot.tv 3Z2O 1T.